lavoro, eccetera. Però questa volta non la sentivo, perché ho provato a guardare e non vedevo nessun buco per passare il filo. Lo sai che gli ha dato mattana anche a lui, che praticamente era tutto inserito in una canaletta, un casino. Per togliere il filo ha dovuto mettere una specie di lenza grossa, attaccarlo, farlo, tirarlo, farlo. Ha detto, mi ha dato mattana anche a me, e che io li piatto ogni giorno, quindi so come fare, però mi ha dato mattana questo impianto qua. Lo credo già. Secondo che macchina è davvero, perché tu considera che nelle macchine nuove poi ci passano un sacco di cavi di elettronica e di tutto di più, capito? Non sono come le macchine di una volta, che erano piuttosto semplici, e erano due cavi che passavano sotto, arrivavano al quadro, allo stereo e basta, accendi sigari, c'era, e i fili delle casse. Adesso ci sono un sacco di apparecchiature elettroniche nelle macchine, e quindi devi stare attento. Quindi è vero, sì, meglio avvalersi di personale esperto, dai, in certi casi. La cazzata, mi ha messo il filo grosso, quello che usano per fare gli impianti stereo per competizione, diciamo, perché fanno le gare, e lui prepara le macchine per fare le gare al quadrato. Qualche volta le ho viste, non so se tu le hai mai viste le gare di stereo di macchine, eccetera eccetera, e niente, mi ha messo quel campo grosso lì, in modo che mi ha fatto tutto quanto fascettato, tutto fatto bene. Ne è un'altra cosa, è ordinato. E beh, Antu, dove sei arrivato? Antu, ho detto, se mi metto anche io già ci sono buono a farlo, va bene. Anche io lo so fare bene, ma nella macchina mia ti dà mattana, perché ci sono i cavi inseriti dentro delle canalette che tu, se non le conosci, le cose non le sai fare. Una molla da dire. Io li ho sempre fatti, gli impianti in macchina mia li ho sempre fatti, sino a questa qua, che praticamente poi non gliel'ho fatto l'impianto, però in macchina mia li ho sempre fatti. Cos'è? Per la voglia, è la voglia che non ti viene. Perché se mi pongo di buon'ora io so fare anche l'impianto serio bene. No, che sto scarzone che è inteso, no, lo faccio bene, bene, bene, bene. Pure. Che si intende solo rumore e basta. Se io lo faccio serio. Anto, io nelle macchine mie ho avuto sempre grossi piatti stereo, tu già lo sai. A me mi vibravano i vetri quando sono dallo stereo, però poi non li ho più fatto, perché da questa macchina in poi ci sono impianti belli che non c'è bisogno manco di fare l'impianto. Tu già l'hai sentito l'impianto della macchina mia come va? No, già un impianto fatto bene, un impianto fatto bene, un impianto fatto bene, non c'entra nulla. Bravo, io mi accontento perché va benissimo questo che c'ho. Scatta di testa, lo metto in piatti da 700 watt nelle macchine che vendo, di riguasso caro, riprendo. Sì, sì, no, anche l'impianto che ho io va benissimo, capito. In passato le radio erano quelle che erano, gli impianti stereo, capito. Ma adesso è tutta roba buona. Io ho una radio, quelle che hanno il navigatore di serie, capito, e ha lo schermo grande, capito, e due DIN la radio. E quindi c'ho navigatore di serie, poi puoi inserirci una chiavetta e ti legge la musica dalla chiavetta, e c'hai Bluetooth per cui puoi collegare anche il telefono, e addirittura se c'è la musica sul telefono te la riproduce sullo stereo, capito? Ha tutto, quindi non devi fare niente. E giusto l'antenna, che la puoi, diciamo, scollegare e mettere di quelle amplificate buttata dentro vicino al tettuccio, alla carrozzeria, riceve lo stesso, capito? E tanto in città c'è anche il segnale digitale, perché adesso vanno di moda le radio DAB, radio digitali, un po' come il digitale terrestre della radio. Non escono più in FM, capito, ma in DAB è DAB Plus addirittura, adesso c'è. io ho una radiosveglia qua che riceve il segnale DAB Plus ed è un'altra cosa, senza interferenze, senza niente, capito, si sente benissimo. Sì, ma che la mia l'ascolto così, ti dice anche il nome del DJ, scorre il nome del DJ che sta trasmettendo nella radio, tutto quanto, che radio è. Esatto, sì, ti dice il titolo della canzone, capito, l'autore, tutto quanto, riconosce tutto, anche quello della chiavetta, se tu nella chiavetta USB metti, capito, le canzoni, lui se c'è anche la, che ne so, la, sulla chiavetta c'hai anche la foto del CD che ti sei messo, della musica, ti riproduce anche l'immagine, capito, è una figata. Sì, lo so, fa anche il mio, io la chiavetta l'ascolto in macchina, ne ho una grossa di chiavetta, ci ho messo tutte le canzoni che mi piacciono, quelle nuove, quelle di una volta, quando faccio viaggi lunghi così non mi annoiano con lo stesso cantante, capito? Bravo Gianni, io faccio lo stesso, nella chiavetta c'ho tante di quelle canzoni, album completi di anni 80, 90, capito? E quindi quando faccio viaggi lunghi anche io piazzo quella roba lì e vai alla grande, capito? E non ti annoi, poi se vuoi porti avanti, tutto i comandi poi ce li ho nel volante, capito? Non la sto con la radio, c'ho tutti i comandi a volante. Dici anche io. Cioè comandi sia al volante che ci scrivo. Devo anche sotto casa, Ma io adesso ho caricato Spotify, metto quello e lui, anche se metto il navigatore, sta sempre cantando, però si sentono tutti e due, capito? Ma a me è bello, io ci posso vedere anche i film. È già un grillo, Antonio, che bello. Un giorno te lo faccio vedere com'è. Metto anche cartoni animati dei bambini per Gabriele, se li guarda. Te lo faccio vedere com'è il mio stereo, che da tutto c'è. Le cose non gli hanno messo chiavetta, lo potevo mettere ma non mi ha detto. Perché tanto poi mi riguardo così, no, non mi interessa, capito? Cioè adesso poi quando voglio ascoltare molta musica in continuo, metto Spotify e se prendendi, da anni 90, La musica anni 90 anche a me piace parecchio, anni 80 ma soprattutto anni 90, che secondo me lì hanno fatto anche delle magie, capito? Bella musica, a me in genere piace un po' tutta la musica, Poi le mie preferenze sono musica soul, capito? Musica, capito, rilassante, tipo Amy Winehouse, cantanti del genere, capito? E mi piace anche Adele, quella inglese, quella canta bene. Brava. Ma mi sentite? Io sono sotto casa. Mi senti Carlo? Antu, già ti sento qua. Santiago 7, Radio 4, ti sento forte e chiaro ancora. Ah, dai, già va bene, adesso riprendo da casa, dai. Me ne vado a casa. Ciao a tutti. 9:10 qua. Quasi 9:15, da un po' più di 9:10. Ciao Antu, a dopo. Carlo, ma in America ti piacciono? Che funziona. Ciao Antonio, ciao, ci sentiamo tranquillamente dopo quando vuoi, non ci sono problemi, quando passi da queste parti chiama se ci sono già, sali a dirti una cosa. Sì che mi piacciono gli America, voglia. Io se tutti non play, c'ho anche quello non play dove sono in concerto, ne ho due di non play dove ci sono tutte le canzoni belle là degli amici. Non so se ti ricordi negli anni 80 i Toto, che anche loro facevano delle belle canzoni. Sì, ho The Line. Ecco, bravo. E tutti quei gruppi lì erano una cannonata. Io ascoltavo anche i Pink Floyd, The Wall, quegli album lì che erano classici, capito, però poi anche musica degli anni 90, capito, per esempio cantanti anche buone tipo Anastasia, che ha fatto un sacco di album buoni, quello Trick of Nature, capito, ne ha fatto tanti, Michael Jackson, già, ne ascoltavo io tante, capito, di canzoni, a voglia. L'ultimo LP che mi hanno regalato i miei figli a Natale è quello degli Intilimani, ma cazzo, cioè, era da tanto che non li sentivo. È buona anche quella già, musica della Cordigliera delle Ande, gli Intilimani, con quegli strumenti a fiato. Sì, sì, anche io dovrei avere qualcosa sul computer, qualche album loro ce lo dovrei avere, capito? El Pueblo Unido, che amar sarà vencido. Eia, eia. Sì, ce n'è di musica da sentire. Guarda, quando, insomma, io ho tempo libero così, da solo, a casa, c'ho radio in ogni dove, l'ascolto al computer, l'ascolto la radio, che c'ho la radio sveglia digitale sul comodino, poi fuori in cucina, in soggiorno, c'ho un sistema di stereo, capito, con una cassa di quelle col Bluetooth, che la colleghi anche al telefono, ed è una bomba quella lì, capito? Ovviamente non la posso mettere a tutto volume, se no non dorme il condominio, capito? E la puoi collegare anche alla TV col cavo ottico, è una cannonata. Solo che sto aspettando a racimolare un po' di grana, mi voglio cambiare la cucina, così mi faccio sotto una base sotto il televisore, in maniera tale che così posso mettermela sotto il televisore e così la posso collegare come era prima nell'altra casa. E musica ne ho dappertutto. Anche io, sono peggio di te io. Allora, io ho la cassa per il karaoke, che si può cantare con Bluetooth, come hai detto tu, microfono senza filo, poi c'è in cameretta dei ragazzi, c'ho proprio il karaoke e canta tu, in più c'ho praticamente tutto l'impianto serio per il coso, per il computer. La Trust, c'ho cassa, c'ho il sub, c'ho le casse più piccole con il midrange e il Twitter, e insomma, se vuoi un po' di musica, l'ho detto, ma qua sono limitato, non posso fare nulla. Se avessi avuto una casa di campagna sarei stato tutto il giorno cantando e suonando. E lo so, è che io non è che ho molto tempo, capito, giusto quando ho i giorni liberi, allora sì, un po' di musica me l'ascolto sempre, la mattina in particolare, mi faccio il caffè, faccio colazione con calma a casa, e mi ascolto prima le notizie, poi spengo la TV, mi accendo lo stereo, capito, e mi ascolto la musica fino alle 10, poi a volte esco, sai, però la musica ce l'ho sempre, anche in macchina, e mi segue sempre. Capito, quello è l'importante, perché fa bene sentire la musica, ti rilassa, ti tranquillizza e già va bene Gianni. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. Io sono entrato, ho cambiato anche il gigetto, apparecchio. Bravo, e cosa stai usando adesso? Il 140. Bella, questa è bella, chiara, chiara, bella la radio, segnale, non se ne fa vedi. Non penso che se ne c'è una moto. Ecco fatto. 40 watt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qua arrivi in fondo scala, tu. Alessio. Beh, è un'altra cosa questa, in confronto alla Fayette, al Midland che c'ho. Il 2009, senza parlare dell'Alana 87. Questa è la migliore che c'è, ciao Alessio. Ciao, ben sentito Gianni. E beh, con il microfono adesso la voglia già va bene, già pompa, già non so che pompa bene questo apparecchio. Ah, va, vieni Dio. No, non lo vendo. Tranquillo. Basta una volta vincolata, c'è ancora la... non la prendo più, quindi me lo tengo e basta. Lo utilizzo. Perché dura, quando non dura, mi ce n'è uno 290 euro, ho visto un 140. Subito oggi. Io ne ho avuto tre, già tre li ho venduti. Ma mi piacciono più i baracchini, ti dico la verità, come estetica, mi piacciono più i baracchini. Non mi piacciono le apparecchiere adamatoriali come estetica, ti dico la verità. Ce ne sono certi che sono buffi proprio, casi sono stretti, grassi. Ah, le pigli che stanno uscendo sono belli gli apparecchi, si può agganciare il monitor, eccetera, eccetera, sono belli, però cazzo, due televisori, di quelli grandi, almeno 40 pollici, agganciati uno a fianco all'altro, poi con l'aggeggio. Sì. Ce ne voglio uno spesso, l'unica cosa che ho visto di bello oggi è dai cinesi, puoi agganciare i portatili, quelli VU, direttamente alla cioè in pratica, puoi parlare tranquillamente col telefono di casa. Ho capito. Ma Carlo, allora che si dice? Il lavoro come va? Fede non è altro. Guarda, adesso un po' di ferie, me ne sto prendendo così, sempre a inizio mese, avevo dal 2 sino all'11 gennaio fatto in ferie, e adesso ho dall'1 al 12 di febbraio, e poi ho chiesto ferie dal 5 al 14 di marzo. Poi ho due settimane che vanno dal 30 di luglio sino al 14 di agosto, capito? Il 15 a Ferragosto sono a lavoro, ma non me ne frega niente. Tanto guarda, prendersi le ferie d'estate, e purtroppo queste ce le abbiamo a turno. Io preferisco fare le ferie a maggio, a giugno, a settembre, a ottobre, perché trovi biglietti economici, se devi viaggiare, hotel, alberghi e ristoranti costa tutto di meno. Se invece vai da giugno, luglio e agosto, capito, tutto alta stagione, e ti costa il doppio, perché sono dei cani morti gli albergatori, i ristoratori, capito, e aumentano di brutto. Sì, quello è vero, quello è vero. Io a giugno sono andato 15 giorni a Roma, in Piazza di Spagna, all'albergo, non ti dico asso, ci abbiamo buttato un bel soldi, vabbè, comunque, mia moglie era così, fatta così, e quindi mi piaceva la zona centrale, eccetera, quindi abbiamo preso lì. Ma ora è partita in Thailandia adesso. Io una mallezzo subato. E gli altri anche lì se meglio. Ma allora adesso sta 6 mesi fuori, Carlo. Beata lei, fa bene girare il mondo e fare nuove esperienze, non ce n'è di meglio. Deve fare un bel po' di posti. Ci sono andati filmati, roba bella. Ehi, ma sì che c'è la musica? Prova a vedere questa musica, che musica è. Io mi sono parlato, ma sto facendo la cena a buona, ci siamo fra poco. Scappa. Prova tu a vedere come arriva. Ma si pugneggia. Da casa mia? Non so da quanto arrivo a casa mia. Santiago 8. Sì, mamma di tutto. Sto scherzando, sei 9:03. Ma no, è un'altra cosa, con l'antenna fissa. Una cosa, come la Turbo 2001, antenne non ne ho trovato altre, quella praticamente era come se fosse a casa. Una volta mi sono messo sotto casa per vedere il segnale, arrivavo con lo stesso segnale che ho l'antenna sul tetto. uguale, che segnale uguale identico, non si sono accorti che ero in macchina. Possiamo immaginare, cioè, vabbè, con un'antenna grande non te ne accorgi perché non ci vi bene, quindi. Però. Cavolo, da minimo a carro adesso gli arrivo un bel forte. Con l'antenna sul tetto, non si può paragonare mai. Allora, quando io avevo l'Astra Station Vego, che avevo quell'impianto, parlavo da Porto Torres con Alghero, cosa che da casa, da Porto Torres, molta gente non arrivava. E io parlavo con Alghero, con... come si chiamava? Ma quello che è morto adesso, adesso non mi viene il nome. Parlavo tranquillamente, tranquillamente con Alghero, capito? Cioè, era un'antenna che, poi te lo può dire Claudio, da quando partivo, da dove lavoravo, a Porto Torres, sempre partivo con segnale 9, aumentavo sempre di più, 9, 9.15, 9.20, sempre così. Vabbè, però a 5 watt non saresti mai arrivato. Cosa? Bisogna fare anche il paragone che io ho 5 watt, neanche. No, io c'avevo uno che c'avevo l'acqua tutto modificato, c'aveva, vabbè, quello della carovana di Gigi Vulcano, capito? Era di Gigi quello lì, pompava forte. E in più c'aveva anche il dialetto 747 che gli applicavo, ma andava a dire una cosa là. Ah, ti ricordi che anche noi ce l'avevamo 747? Cioè, quando attaccavamo in macchina si sentiva, non è che non si sentiva, cioè, dava prestazioni allucinanti. E mettitelo. Cosa stavo pensando? Siccome ci arriva, di passarlo sotto il sedile, stavo pensando. Di passare il piede sotto il sedile e mettere sotto il sedile e metterci 747, vediamo se ha una incavatura o qualcosa, metterlo sotto il sedile, stavo pensando, e passarmi tutto il cavo grosso, cioè fare un bel impianto. Questo si può fare a parole, poi a fatti, se ti metti lo fai anche a fatti, si può fare, sì. Ma quello che ti serve adesso è un microfono amplificato, te l'ho detto. Quando c'hai i soldi te lo prendi, un microfono amplificato e già migliori di molto. Mica per essere bravo di quei pochi watt, mica stavo scendo bene oggi. Cioè, andava bene neanche lontano. Per avere quei pochi watt. E cosa pretendi? Già va bene a tu. In città va bene, ma poi magari se ti allontani, capito, è quello il problema, quando ti allontani che ci sono, diciamo, degli ostacoli, delle cose, abbassi come segnale, invece se c'hai lineare, se c'hai qualcosa sotto, riesci, poi ne hai due più lineari a casa, cosa ti ne vai? 747, non muore in macchina e gli dà il drugo a casa. Ne busco uno, se proprio lo voglio qua ne busco uno. Là che ho stato in Kiwi a Gigi. Comunque Antonio, 9.20 qua mi stai arrivando, eh. Ebbe da casa tutta la sagorda. Lascia stare a Gigi lì. E ti spiego il perché no, non si può tenere attaccato qualcosa. Perché con 747 è una garanzia, è affidabile. Si pone su, devi starci un pochettino addosso, devi starci, perché già lo sai, con le valvole non si scherza. Vabbè, lo devi accordare naturalmente. Se lo sai usare non ti dà problemi, lo usano tutti, cazzo. Lo usano anche Antonello da Ussi, va, e da Ussi. Antonello lo usava quello lì, usciva perfetto, non gli distorceva, ma con la radio. Anche il mio, no, non è quello, no. Adesso io in sala non ci sono, capito? Perdutene una. Cioè, se mi pongo qui atteso non va bene, capito? Io sono in camera da letto, capito? E tipo su di una melana, regalato una persona a quel commutatore lì, ZG. Io ti posso dire, da quando lo sto usando, ma è un problema. Vabbè, però che è adatto a me sì, deve essere che era difettoso il mio, mi mandava tutto con la scala, era in corso. L'ho comprato nuovo da Fusaro e glielo ho anche detto a Marzia che mi dava quel problema. Dice no, mi sembra strano, ti sembra strano. Ma lo fa, punto. Mi dava quel problema lì, un periodo ha funzionato bene, poi di colpo, non è a dire che l'ho piazzata e l'ha fatto subito, l'ha fatto dopo un po'. Mi dava quel problema lì. L'ho aperto per vedere le alette se erano tutte a posto e mi sembrava tutto a posto dentro. Non capisco che cosa è. Strano. Boh, secondo me. Che gli ha caricato un po' di fatte dentro, perché non vogliono caricarti molto quelle, devono andare così, devono andare, deve caricare lui, deve caricare dall'altra parte, non tu, cioè, perché sono un po' delicati, capito? Oh, io viaggio, funziona bene, fino adesso non mi ha dato mai problemi, fino ad ora. Poi non lo so, magari in futuro succederà quello, ora risolvo. E a me è successo subito, dopo un paio di settimane mi è successo. Avanti caro, vai, se no parliamo solo lui. E Yami, va bene Antonio, se stai, c'hai da fare che stai chiudendo, ce la risentiamo tutte le prossime, va benissimo. Vendo? No, non sta chiudendo. Alessio! Alessio, ci sei? E mi sa che forse è andata a preparare la cena. Ma guarda, il commutatore del Tagine, a me... Cioè, io da quando me l'hanno dato, era pure un altro. Cioè, quello lì, da qualche anno, cioè, perché si vede come è andato. E a tre, quanto ne ha? A tre vie. Ma è un problema. Sempre funzionato bene. Bravo, bravo. Ho capito. CPCPC, cosa? Ma ce l'avevo anche io, cambiavo da un baracchino all'altro. Con quello lì a volte me ne dimenticavo di cambiare. Andava a modulare, ma c'è delle successe. E delle commutatori che non avevo girato. Sì, qua ci ho messo, l'ho messo nella 2, in camera da letto. Ho fatto passare il cavo dalla sala e ho messo qua. In sala ci sono i baracchini e qua c'è un altro. Qua c'è l'ana 48. L'ho fatto tutto io l'impianto. Ho dovuto bucare la cosa, mia moglie è incazzata. Che non sto facendo il buco, sai come ti rubassero un capo di antenna? Boh. Ecco, poi a Peppino punto io. Sì che ti sento Carlo? Tu canale 12, ma sto scherzando. Ti sento meglio sul 12 che sul 10, com'è possibile? Sento bene qua sul 10, sono sul 10 Carlo. Sì, io Antonio lo sento sul 10. Ho provato a girare sul 12 e lo sento anche sul 12. Oh, attenzione, attenzione, cappa! No, no, io non lo sento, io ho provato e non lo sento. Sarà il tuo fuori frequenza, Carlo. No, no, adesso io sono sul 10, 27.0750, e Antonio lo sento sia qua che sul 12, no, non riesco a capire come sia possibile. Sono spurie sicuramente, sono una spurie, non tu, lui. Io ho provato, mentre stavo parlando non lo sentivo. Ma sentire sblatterare. Sblattera. Comunque già, quello che stavi dicendo tu che è morto di Alghero, chi era? Mirko, Carlo, non me lo ricordo. Io. Io non te l'ho detto Carlo, forse te l'ha detto qualche durante. diciamo prima che stavate parlando, che stavi dicendo, mi sentivo con quello di Alghero che non c'è più adesso. Ah, sì. Si chiamava, faceva ridere un bel gamba, non mi viene adesso Carlo, non mi viene, ma comunque era un bel gamba. Io vi ricordo che una volta siamo andati a casa sua per portarlo, per portare in pizzeria, siamo andati il Tigrefa, io, Luca, eccetera eccetera, io vieni che andiamo in pizzeria. No, voi restate qua, adesso la cena la faccio io, mia moglie ha preso i funghi porcini, mi cari, li ha presi adesso, e li ha portati adesso, sono freschi, ha preso questi porcini, così ce li faccio, la tua tua moglie non li mangia, no, ma lei non gli piacciono nemmeno i funghi, e ci ha fatto, si cucinava anche un bel bene. Poi ha tolto il pane in casa, mi sono pisciato dalle risate, lo sai come l'ha scongelato, ma io se te lo dico non ci credo. Io ho capito, no, perché io di Alghero prima sentivo Mirko, oppure Vanni, Rocky 2, capito, e non erano rimasti in tanti, adesso sono un po' riaffarsi e stanno sul 15. No, non è qui. Vabbè, comunque avevo scongelato il pane che è tutto dal freezer col forno, te la stai facendo, hai scongelato il pane, a che barre di... ho capito. Invece qualche settimana fa, non so se ti ricordi, forse c'eri anche tu in radio, che era entrato Gavino un attimo, stavamo parlando di radio da mettere a posto, forse quella di San Pei, e lui stava dicendo che aveva saputo che Albino, quello di Porore, non c'era più lo stesso. Sì, l'ho sentito veramente, quanti sono rimasto secco, non avevo sentito nulla, io solitamente queste cose si sentono, non ho sentito nulla, vabbè che negli autisti non sentono manco più Gigi Vulcano, che lui era amico di Albino, le portava molti baracchini, eccetera. Esatto, perché io l'ho conosciuto di persona, e la radio che hai tu l'ha messa a posto lui, capito? Caspittina, era giovane, era poverino, mi dispiace. Infatti quella sera ho provato a chiamare Gavino, o non mi sentiva, oppure aveva già chiuso. Era giusto per curiosità, no? Per avere la certezza di questa cosa. Io non lo sapevo nulla, sinceramente. Cosa dirti, non posso dirti nulla perché l'ho sentito da lui e basta. E vabbè, ma sarà così, va bene, era giusto una curiosità, se avevo capito bene, ma mi sa di sì. Poi avrò modo di chiedere meglio, magari a chissà con certezza, non ti preoccupare. Va bene, giovani, io mi sa che adesso chiudo, perché mi devo preparare un po' la cena, mi faccio una doccia, la barba, perché domani mattina mi alzo presto e mi inizio a preparare un pochettino da prima, perché la mattina, se no già mi alzo presto, se no mi tocca alzarmi ancora più presto a farmi barba e doccia, capito? E quindi preferisco alcune cose farle la sera prima di andare a dormire. Ho capito, ma la barba è meglio farla la mattina presto, eh. Va bene, andiamo. Ci sentiamo, grazie per il questo. Buona cena quando la fai, dai. Avanti anche. Vabbè, mi sa che ha chiuso Antonio, va bene, dai, vi saluto, ciao Gianni, grazie anche a te del QSO, ci sentiamo nei prossimi giorni, dai, e domani sera dovrei essere di nuovo in radio, tanto sto facendo mattine, quindi pomeriggio, un po' di relax, già me lo faccio, e un po' di cosette da fare, ciao Alessio se sei in ascolto, ciao Antonio, ciao di nuovo Gianni e tutti quelli che sono in ascolto, buonasera a tutti. Ciao Carlo, ci sentiamo, buona cena, buon tutto, sono appena rientrato, ho cucinato la Simona, sono il mio furbo, capito? La buca non l'ha mangiata, sto aspettando le polpette. Antonio, ci sei? Avanti se c'è qualcuno su 10 che vuole entrare. Sono apprezzato, sono. Bianco un attimo che mi sta rompendo le scatole. Mamma mia. il terremoto. Alleluia. Allora, guardate. Papi di piccoli sono un terremoto. Non so cosa, cosa io di mille pozze. L'altro però. E come un terremoto davvero. Noi coraniglia siamo tranquilli. Adesso, guardate, è più piccolo. È una peste. Allora, abbasso appena appena la radio, poco poco. Appena la radio. Ah, aspetta, che salito. Aspetta, adesso va meglio? Cappa. Ma che dai, volevo dire. Perché stanno cominciando a diventare distorta. E ho abbassato il minca gay. No, no, va bene così. Perché come scalda, capito? Come scalda, prima magari andava bene, poi come scalda ne va fuori. Ma no, io per quello che lo odio i 140 e 440, perché devi stare sempre a regolare, a fare, invece con baracchino, se sei chivo e basta. Vabbè, io con baracchino non sono mai riuscito a fare gli ex, ma con quelli già attaccato da 100 watt. Con questo invece chiaro mi rispondono subito, mi sembra di essere al telefono. Non sei mai riuscito con baracchino a fare gli ex? No, con questi baracchini niente. Attaccavo anche il lineale, quello che ho, da 100 watt, nulla. Con questo faccio la Coca-Cola, mi risponde immediatamente la Russia, l'Ucraina, come se fosse al telefono. Sì, ma col baracchino già ne hai fatto degli ex, perché io me lo ricordo, prima non c'avevi il credito. Già ne facevi con la Spagna, me ne ricordo quando ero via Rizzindu, che parlavi con un di persone. Sì, se per questo la facevo parlare manco a quelli d'Alghero, se ti ricordi bene. Facevamo il muro di Berlino con Claudio. Prendevo, attaccavo il BV 2001 con la valvole, con il baracchino, allora gli davo mazzana, da 14 spatteravo il 15 e si lamentava l'Alghero. No, il baracchino io ne ho fatto me anche col Galaxy, addirittura dal quadrato, dal parcheggio delle qui ci ho parlato con Londra io dal baracchino. Io mi sono divertito abbastanza. Io me li mettevo col Saturnecco che era di lusso. La verità, poi vabbè, l'avevo venduto, la verità mi sono pentito che l'avevo venduto, lo sai. Sarebbe stato bello averlo ancora qua, ma non me ne fosse nulla. Cioè va bene quello che c'ho, basta avanza. Taggio, aspetta un attimo. Avanti, Antonio, se sei libero. Sì, ma c'ho l'acqua a fare. Cavolo, io invece sono arrivato anche fuori. Sono arrivato anche molto forte, mi sono divertito sia qua e sia nella vecchia casa, cioè quando abitavo in Casa di Vecchio. Cazzo, che c'era il periodo che arrivavano tutti quelli dal continente, ma è a fondo scala, sì, a fondo scala. Lì è una bella zona, lì dove abitavi tu anche. Basso era, però dava mattana. Ma anche qua mi sono divertito. Anche qua, quando l'anno scorso sono arrivato, non mi ricordo dove, mi dicevano che sembravo lì, a fondo scala. Vabbè che ho cominciato a tirar fuori gli artigli, quindi. Arrivava una bomba, arrivava fortissimo. Quando era 87 uscivi forte, si faceva intelligente con quello. Dava via Burrag la taglosa. Cioè praticamente non mi ricordo adesso dove cavolo è, mi dicevano che era a fondo scala. Ah, in Sicilia. Dice sempre qua, a fondo scala. Sì, lo so. Comunque dalla 87, quello che ho io adesso, l'altro modello, c'era una bella differenza, montava un filare in più, montava, capito? E portava lì tutto quello. Sì, anche con altre radio già mi sono divertito, Blu 48. Comunque l'emissione già c'era, è la verità. Ti posso dire, guarda, che all'epoca c'avevo la Ringo solo. Questa è un'altra cosa, questo è un altro mondo. Però c'avevo la Ringo vecchia, io c'avevo, e andava bene. Però questa è un'altra cosa, questa qua, questa che ho comprato, questa 50. Chi c'è un'altra cosa? Vabbè, c'è un grido. Cambia l'antenna. C'è un'altra cosa, sì. Se avrei avuto la Firenze 2, già pesava più di 3 kg e mezzo, ma era una bella antenna quella, bella grossa, un cavolo che si spaccava quella. Poi c'era, in pratica c'era la Firenze 2, poi la coppia della Firenze 2 l'avevano fatto, adesso non si trovano più. Magari qualcuno magari ce l'avrà, a casa sua buttata, oppure qualche negozio che ha chiuso, magari ce l'ha buttata dentro, ma come sappiamo noi, qualche negozio di elettronica. Allora la vendeva quel tipo che aveva aperto un negozio lì all'ingresso di Rockefeller. La Firenze 2 c'era la Super Regibus. La Super Regibus l'ho avuta io. Solo che io ho lavorato a Giovanna, poi quando era trasloccato l'ha lasciata lì. Dove, capito, se l'ha presa il padrone di casa e l'ha regalata al figlio. Non la nuova la mia Super Regibus. Non me l'ha voluto dare, quindi figurati. Hai fatto e avviene a me, ho detto uno di questi anni. E mi dava qualche malattia, non so, a riparare. Quindi non gli ho detto manco, non gli ho detto mai più. Voglio vedere cosa diavolo faceva, 3 o 4 malattie ci aveva. Modulava. E certo che modulava. Allora, c'erano i baracchini giù a coso, allora stava per andare a Sosso, abitava lui. Ho lavorato con lui quasi 2 anni, figurati. Ma senti la propagazione? Lì è visto. Io vengo preso. Però si sente forte. Come io sento basso, la verità. Come insomma già lo sai, da quando ho costruito queste palazzine io per la zona lì sono su seno e sono chiuso. Ci sono quelle 2 palazzine che hanno costruito qua di fronte, che sono più alte del palazzo mio, a meno di 2 o 3 piani, e quindi mi tappano. Vabbè, ma qui c'è una bella zona per il paese. Sa, se pissi, usi, quello sì. Se metto un'altra dalla parte del camionetto, ma come lo prendo in pieno? Perché l'avevo fatto una volta, avevo installata lì un'antenna di nel tubo 2001, quando l'avevo lavorato a Giuseppe Leoncino. Mi ha messo 3 radiali, un palo da 3-4 metri che avevo prestato, e in quel punto lì era appunto aperto per le centro Sardegna. Già, ma appena il palo è piegato nella tua antenna. Ho capito, è piegata? No, a Gianni, si è piegato appena il palo. La tua? Nella tua. Come il palo? Oggi mi sembrava un pochettino che il palo aveva preso una piccola piega. Antu, l'antenna è sempre stata così. L'ho messa un po' piegata perché tira il vento al contrario e se no mi la drocca. L'ho messa appena inclinata. Oh. Come fa a piegare l'antenna da 9 tiranti? Sarebbe il colpo. Oh, il palo parlo, non l'antenna, l'antenna si bigia. Il palo, i tirati sono il palo, mica l'antenna. Comunque già sembra abbastanza toga. Quanto ce l'hai adesso? L'ho piazzata il giorno di Santa Lucia di 3 anni fa. Beh, andava. 13 dicembre. Abbiamo piazzato. Già va bene. Anche la Superland è una bellissima antenna. Appunto. È fatta meglio della Mantova. addirittura c'è la parte di giù, quella che era lavata, ma c'è un girice dove si attacca il piede, che tutto è l'acciaio. Pure che con la mamma c'è una faccetta di merda, brutta. La faccetta si era rotta, infatti l'ho cambiata, gliel'ho messa in acciaio. Comunque già va abbastanza bene, dai. Siamo già 3 anni, io ce l'ho. Secondo me sono più di 3 anni che è piazzata tu, ce l'ho già 2 anni io quasi. No, mi ricordo il giorno di Santa Lucia, perché Santa Lucia è la festa di Calzolaio, e quindi a casa mia c'è la festa, il giorno di Santa Lucia mio padre è a Calzolaio, quindi mi ricordo me 13 dicembre, di 3 anni fa. D'accordo. Avanti il break. Buonasera a tutti, Luca Floppi da questa parte. Anche mio nonno era calzolaio e a casa si è sempre festeggiato la Santa Lucia. E dove ce l'aveva una calzoleria? Mio nonno era conosciuto come Lugazzuraggio Zuppu, perché aveva una gamba che il treno gliel'aveva tagliato dal ginocchio in giù. Da ragazzino mentre si spingevano per prendere il treno a Porto Torres, quindi era Lugazzuraggio Zuppu. Io ho conosciuto che aveva in via Flumenargia, però poi come Butrea nasce in via dei Corsi. Sì, magari come un paese si conosceva. Ma un paese ce l'aveva portato sì, tu via Santa Elisabetta. Attento mio hermano, dello scusare il giorno della Sardegna, neanche ve lo comprendito. C'è propagazione, ma non ti sento. Luca Flo, è la prima volta che lo sento. Buonasera. Buonasera Antonio, ti ho ascoltato poco fa. Sì, sono nuovo di questo periodo, vecchio come CB di 25-30 anni fa, e ho ripreso a modulare. Ah, mi arrivi fortissimo qua, eh. In che zona sei? Fine di Via d'Italia. Aspetta, arrivi molto forte, arrivi qua. Quindi non so se sia favorevole, se è un'antenna buona. Comunque qua arrivi forte. Sei quasi 30, sì. Antenna piazzata nuova sabato mattina. Sì, quasi 9.30, sì. Che antenna ti hai messo? È una mezza onda della Alberec, come ti si dice? Albrecht. Sì, se ce l'hai sul tetto, guarda, stai arrivando fortissimo, molto, molto, molto forte. Non so come senti tu a me. Perfetto, pieno. Io ho una GPE della Sirio, quelle a 3 radiali, che pure ce l'abbiamo comprato tranne Gianni, ce l'ho io, ce l'ho Pomponio, però quella là ce l'ha, non mi viene il nome adesso, però è marchiata Midland, però sono tutte quasi uguali e devo dire che va. Questa è Albrecht 6348, è alta 6,20 e c'ha 3 radiali da 90 cm l'uno. È buona, ti posso dire che sei fortissimo. Sempre che questa bufera non mi rampa in terra. Non te la butta in terra, tranquillo, il vento forte non ce n'è oggi. Visto che sta piovendo anche poco, buongiorno Luca. Almeno fai il rodaggio. Ah, quello sì. Era superbo, ma sono più che altro di cose, cazzo. Dalla parte di Cagliari, ragazzi, 10.000 fulmini, cazzo, in mezzo al mare, cazzo, scaricato da Tripoli, fino ad arrivare a Castillo, cazzo. Almeno ho visto un po' di spettacolo. Allora, una luna sono 10.000 fulmini, cazzo. In mare, specialmente. Non vai a pescare, no? Sì, basta usare le canne che vanno bene, non ci succede nulla. Sì, io sono la canne, no? Anche se la barca più che altro, se esci in barca ti trovi fottuto, ti trovi con questo vento qua, la parte di Cagliari, che sta piando in pieno, la zona di Gallura, il Norese, quindi meno male la luce ci sta pigliando di squiscio. Io non penso che esca nessuno in barca con questo vento, se non è macco, esce con questo vento è proprio pazzo. Allora, c'è un vero. Avanti, Luca. E prendi. Fa girare. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera anche a lei. Chi è, che siete? Chi è avanti che saluta? Sanpe, tutti i gannabbi e i bigiardi, viso. E la resta tutta imbrugliata con queste canne a vento. Ma io dico, con che sommari che esci in bacca, E allora, non hai visto che tu in Sicilia prendi il bagno e tu prendi? Non hai visto qui? Bisogna chiamare gli altri per salvarlo e ci mettono la vita. Niente girando di debito. Allora, una volta c'era il mare così a Portoferro, non so se siete mai stati a Portoferro, il mare gira perché porta verso il largo. E c'era questo turista con una piastra da surf e stava divertendosi nelle onde. A un certo punto lo vediamo cazzo, con la mano alzata, in acqua, con la mano alzata. E abbiamo fatto la catena umana, c'era un cavo lì in riva e abbiamo fatto la catena umana, le abbiamo lanciato il cavo e l'abbiamo tirato fuori. Quando l'abbiamo tirato fuori ha detto che non stava negando, io me lo qui. No, andi tu, ne vai caricare di Sebidu, di Grecchiano. A chi vivi, non è bisognava accudirlo, fruttarlo bisognava. Non è che ha ringraziato, ha detto no, io non negare, non negare. Non negare, lui. E l'ha chiacciato la mano in mezzo a lei, ma Giuseppe la parte, Giuseppe, la piazza di Giuseppe se n'è andata con tutto suo, ed è rimasto senza, capito? È rimasto in acqua con la mano alzata, chiedendo aiuto. Siccome a Portoferro mettono sempre un salvagente di salvataggio con una corda lunga, e abbiamo fatto la catena umana, abbiamo rischiato lui. Ti non credo, ma lì dove c'è il faro a Portoferro, che praticamente è a dare due a cose di Moa da Fannapoli, a parte di un disegno impressa, alla maglia di Portoconte. No, praticamente dove c'è quella spiaggia lunga che poi va. Se tu fai tutta la spiaggia, poi va dove c'è una torre, eccetera, eccetera. E ci sono quelle spiaggette che ci stanno due persone, quelle e poi vanno anche i nudisti lì. E ho già capito dove è già, visto Gannabbi più di una volta. E ci vanno spesso quelli lì, i surfisti lì a chi si fanno quelle onde. Però deve essere esperto uno, non entra così a ragabu, a ragabi scebidato, capito? E del resto te lo disegno, lui si è bello e tutto cazzo bruciato della gente. Ma riprende a c***o, lo riprende lui. So che se è sentato lo vanno chiamato, come minimo. E prendi tu, Antonio. Quella zona è brutta perché si gira il mare di colpo e ti porta verso l'arco. Sì, anche a Plaza Vola più di uno sta camminando lì nelle, un po' più giù della riva, si è trovato in forza, si è parlato tutto dentro. Vabbè, sto scendo basso di radio, guarda cosa succede. Io? Basso? Sì, c'è ragione. Allora, adesso va bene? Adesso sì, cosa è successo? Ho sospettato, lo sentite magari, dell'apparecchio stesso. L'avrei toccato senza volerlo. E gli si è abbassato di colpo, proprio la radio quasi non si sentiva. Confermi, Sampi? Gappa l'ogeno, ma non è che magari c'è qualche microfono amplificato e la batteria ha fatto il gioco come a me l'altra volta. No, microfono normale del Kemut questo qua. Ogni tanto lo fa perché lo slide, capito, lo usi l'apparecchio. Lo slide in pratica fa contatto o non fa contatto a me. L'ha sempre fatto, anche con il 60 me lo faceva ogni tanto una cosa del genere. Poi si metteva la porta da solo. Sembra l'avevo controllato, fai che se di là se ti può controllare un dubbio. Luca passa in QRT e vi saluta a tutti, ciao, alle prossimine. Io Luca. Eccolo Luca, io passo in QRT e ci sentiamo alle prossimine, saluti a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ci sentiamo Luca. Dammi bene, 15 anni con quel tipo. Antonio, sei di nuovo basso di radio. Allora, ma... Cazzo, diavolo. Adesso va bene. Sì, adesso. Aspettate, vengo in crisi politica con il microfono, cazzo, adesso. Sto utilizzando la parecchia, ma è fermo. Sta girando il yo-yo, quando sono 5-6 apparecchi in funzione, uso, cioè, un mese usi uno, poi fai 2 mesi senza usarlo, poi il 2009 è peggio, insomma cosa accende. Devo fare come faccio io? Io uso l'apparecchio e ci do tutti attaccati gli altri, tutti accesi. Bene, tanto vi sto chiamando, dai, vi saluto. Alle prossime, dai, ci sentiamo, ciao San Pini, ciao Antonio, ciao anche Alessio, dai, mi sentite tutti e comunque se ho. Ciao, ciao, ci sentiamo, ciao a tutti, e ciao Maro, si parli per travaglio domani, cioè, non è possibile una gente se sta travagliando. Non facciamo. Benvenuta. Ciao Gianni, saluto a Tyson. E ci saluta anche lui. A caso non avete sentito altro? Un po' oggi e basta, come ho sentito tu. Io per vedere come stava il scarico della portare al veterinario. Da fare. Ci sentiamo, dai. Ciao ciao. Ciao ciao Gianni. Luca, mi senti? Luca chiuso? Come ti arrivo? Come ieri? A me beh, mi arrivo bene comunque. Sei da forza o sbaglio? Ma mi sentite, eh? Come vi arrivo? Come mi sentite? Bene mi sentite? Luca, ci sei Luca? Antonio, mi senti Antonio? Un attimo, telefono per me. Allora, c'è nessuno? Ma tutto andato viene sedi, bubu. Antonio, ci sei Antonio, come mi ascolti?